Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. L'Italia ha sempre avuto una posizione di prestigio nel mondo della musica. Potremmo addirittura azzardare una linea immaginaria che da Verdi e Toscanini arriva fino a Domenico Modugno, conosciuto in tutto il mondo come Mister Volare. Non sono rari i musicisti che con le loro opere sono riusciti a superare i confini nazionali e a diventare artisti conosciuti in tutto il mondo. Oggi, a Destini Incrociati, parleremo di due persone che, grazie a una canzone, hanno conquistato il sogno più ambito da ogni essere umano. L'immortalità. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te domine Milano. Milano è una città molto particolare, moderna, caotica, nebbiosa, ma anche simbolo di uno stile di vita legato alla moda, alla pubblicità, al lavoro svolto dai suoi abitanti in modo operoso, organizzato, come in un perfetto alveare. La si ama o la si odia, non ci sono mezze misure. Ma Milano è stata da sempre la culla della musica italiana. Tra le strette vie del centro si vedeva passeggiare Giuseppe Verdi. Nei palazzi della Galleria è nata la gloriosa Casa Ricordi, che dal 1808 ha attraversato più di due secoli di vita italiana, sopravvivendo ai bombardamenti. Ed è proprio a Milano che nasce un bambino sveglio, vivace, che non riesce mai a star fermo un momento, sempre pronto a far divertire i suoi amici e che coltiva fin da piccolo l'amore per la musica. Si chiama Elio Cesari, ma è un altro il nome con cui diventerà famoso in tutto il mondo. Tony Renis. Tony Renis. Tony è nato il 13 maggio, è un toro e da questo segno zodiacale riceve la forza di volontà, la testardaggine nel perseguire un obiettivo e alla fine raggiungerlo. Suo padre, Orfelio Cesari, pittore e restauratore con la lavaliera al collo, che lo fa apparire un uomo di altri tempi, ha un carattere fiero, orgoglioso di avere conosciuto Pirandello e D'Annunzio. Un uomo semplice, tutto casa e famiglia. Tony ha la passione per la musica, ma anche per lo spettacolo. Durante la guerra, sfollati in campagna, improvvisa spettacolini per i contadini, accompagnandosi con il suono di due cucchiai e ricevendo in cambio verdure e uova. Poi, tornato a Milano, comincia a frequentare l'oratorio di San Lorenzo, dove condivide la passione per il calcio con un altro bambino di nome Adriano, di cognome Celentano. Proprio con Celentano inizia anche i suoi primi spettacoli gratuiti, anche per i carcerati di San Vittore. Li chiamavano gli angeli dei carcerati. Elio Cesari diventa Tony Renis scegliendosi il nome dall'elenco telefonico di Milano. Era un nome internazionale che suonava bene, si pronunciava allo stesso modo in inglese, spagnolo e francese. In coppia con Adriano Celentano fonda un duo, gli Allegri Menestrelli del Ritmo, che si esibisce in una parodia di Dean Martin e Jerry Lewis. Si iscrivono all'ufficio di collocamento dello spettacolo sperando di essere scritturati in qualche teatro di avanspettacolo. Non sempre questo accade, anche perché Tony soffre di una leggera balbuzie che spesso compromette il buon esito del provino. Poi il primo vero spettacolo al Teatro Smeraldo, di lunedì, con un pubblico composto per lo più da barbieri perché era il loro giorno di chiusura. Non sono un uomo ancora. Il primo successo discografico arriva nel 1959, quando nella sua Milano Tony Renis vince la Sei giorni della canzone, manifestazione canora collegata alla Sei giorni di ciclismo. Organizzata con un centinaio di cantanti che si esibivano durante sei giornate, questa manifestazione lanciò nei suoi tre anni di esistenza cantanti come Gino Paoli, Mina e canzoni come Il nostro concerto, Tintarella di luna, Tenerezza. La canzone con cui Tony Renis trionfa alla prima edizione, ma che raggiunge il successo discografico con Gianni Morandi. Tony è un ragazzo simpatico, intraprendente e affascinante. Nel 1961 partecipa al suo primo festival di Sanremo. Il merito è di Mina. L'allora patron del festival, Ezio Radaelli, la voleva a tutti i costi. «Vengo se porti anche Tronis», risponde lei usando il soprannome con cui chiamava Tony. Ma di quella edizione Tony non conserva un buon ricordo. Nel 61, quando andai a Sanremo pieno di sogni, uscì per primo, fui, fui sorteggiato per primo, andai a cantare per primo e mi hanno sbattuto fuori per primo, quindi devo dirti, forse quello è stato un momento di amarezza grande, perché io, siccome sono un bambino prodigio, già avevo, quanti avevo? Già 20 anni, 21 anni, ero già abbastanza vecchio, perché ho iniziato all'età di 4 anni, quindi pensavo che per me la carriera era terminata, quindi pensavo, avevo deciso di andare a lavorare in banca, a contare i soldi degli altri, tra l'altro a fare il bancario, non il banchiere, il bancario. Vince Al di là, cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis. È un anno difficile per lui, comincia a insinuarsi la voglia di mollare tutto. Ma Tony non è il tipo da farsi sopraffare dallo sconforto, e poi c'è sempre in testa quella musichetta che ogni tanto canticchia e che secondo lui potrebbe diventare un successo. A quei tempi non si preparavano registrazioni e provini, si andava più semplicemente a suonare il campanello dei più importanti editori musicali e lì, seduti a un pianoforte, si suonava e cantava il proprio pezzo, cercando di farlo piacere alla persona giusta. E proprio suonando uno di questi campanelli, la vita di Tony Renis cambia in un attimo. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me, soltanto per me. È una Milano avvolta nella nebbia e nel torpore dei primi anni 30 ad accogliere il secondo protagonista di Destini Incrociati di oggi. Nasce in Brasile nel 1927 da genitori italiani, ma torna in Italia a 5 anni fermandosi a Varazze dalla nonna paterna. Poi nel 1934 raggiunge i genitori a Milano e di questa città si innamora alla follia, portandosela dentro nel cuore e dimostrandole in più di una occasione il suo incontrastato amore. Il suo nome e Alberto Testa. Alberto Testa. Per alcune persone il destino ha già scritto tutto, e quindi non ci si deve meravigliare se anche il piccolo Albertino, fin da bambino, è sempre in prima fila negli spettacoli studenteschi, esibendosi come presentatore e come cantante. Poi, con lo scoppio della guerra, si arruola nei paracadutisti e viene preso prigioniero e deportato in Texas. E anche lì trova il modo di sfogare la sua vena artistica, esibendosi in spettacoli per i prigionieri. Dopo la guerra, però, raggiunto il diploma di ragioniere, Alberto Testa inizia a lavorare con il padre e il fratello Enrico come rappresentante di commercio di tessuti e confezioni. Ma la passione per la musica se la porta anche durante i lunghi viaggi in giro per l'Italia, insieme con i vestiti di campionario, fino ad arrivare alla sede della musica italiana, Galleria del Corso 4. Era il periodo nel quale quasi tutti i giorni, poco prima della una del pomeriggio, parcheggiavo la mia 500 giardinetta in piazza Beccaria, a Milano. Ci lasciavo dentro le valigie del campionario della ditta Florindo Fiorino e Fratelli, drapperie e lanerie, cioè tessuti da uomo e da donna, e mi immergevo nella vita di Galleria del Corso. Tutti i musicisti, i cantanti, gli autori, gli impresari di musica popolare e colta ci si trovavano per incontrarsi, raccontarsi, cercare lavoro, offrire serate, cercare nuove canzoni, offrire nuove musiche, comunque per esserci, perché in Galleria del Corso a Milano allora c'era tutta la musica italiana, compresa quella napoletana, dei napoletani che non vivevano a Napoli. In Galleria del Corso, se volevi esistere, ci dovevi essere, perché lì avevano i loro uffici tutti i principali editori dell'epoca, Curci, Ricordi, Suvini, Zerboni, per non parlare di compositori e autori famosi, come ci racconta lo stesso Alberto Testa. C'erano i musicisti importanti, Mascheroni, Kramer, Olivieri, Di Lazzaro, Sciorilli, con la sua In cerca di te, detta Solo me ne vo per la città. Oppure Danzi, con Bracchi e la loro Madunina. C'era davvero una ressa incredibile di grandi, di gente che ha fatto cantare, ballare, innamorare, divertire non solo l'Italia, ma il mondo. Con lo pseudonimo Santos, in onore della città brasiliana dove è nato, Alberto Testa pubblica per le edizioni musicali Sette Note la sua prima canzone nel 1952. Si tratta di Valentino, su musica di Mario Bertolazzi, portata al successo dal quartetto Radar, che la esegue in numerose trasmissioni radiofoniche, senza però mai inciderla. Comunque Alberto Testa può cominciare a definirsi un autore. Proverò a parlare del mestiere dell'autore. E uno si domanda, ma è un mestiere? No, è un sacco di altre cose. Un'ispirazione, una voglia, una necessità spirituale, un prurito, un senso di superiorità, un divertimento, una guerra contro il vuoto, contro l'ignoranza, una scala per il cielo, un gioco, una botola per lo sprofondo, un'attrazione irresistibile, un incanto, un sogno, una follia, una favola, un pugno nello stomaco, una spinta per cui tu ti butti sulla pagina bianca di un computer e la riempi, oppure ti infili in una soffitta o voli all'aperto carico di pennelli, tele, macchine fotografiche e spari tutte le tue ossessioni e ispirazioni, o ti precipiti su una chitarra, su un pianoforte, su una tastiera. E come se fosse l'ultima possibilità che ha il mondo di conoscere la verità, canti tutto te stesso con tutti i tuoi colori, le lacrime, le sofferenze, le speranze, tutto. Quando riesci a trovare il modo di trasferire tutte queste emozioni in un qualcosa che sia accessibile a tutti, dice Alberto Testa, allora quest'arte diventa una professione. Ci puoi anche mantenere una famiglia. Così il giovane autore compone una serie di canzoni che diventano successi al Festival di Sanremo delle edizioni del 56 e del 58. Ma è del 1959 una delle canzoni più celebri di Alberto Testa. Egregio Maestro Testa, mi chiamo Rinaldo Cozzoli e sono un funzionario della manifattura Tabacchi di Lucca. Le invio per plico alcuni spartiti da me composti, nella speranza di incontrare il suo favore e avere il privilegio di ottenere da lei la stesura dei testi. Nell'attesa di sue, le porgo i miei più cordiali ossequi. È mezzanotte, diamoci un bacio. Alberto Testa riceve il plico e di tutte le canzoni gliene piace una in particolare. I due si danno appuntamento alla stazione centrale alle 9 di sera e dopo una lunga chiacchierata Cozzoli prende il treno per tornare a casa con la promessa di ricevere un testo simpatico e divertente da Alberto Testa. I due si salutano, è mezzanotte. Ed è proprio È mezzanotte il titolo della canzone portata al successo a Sanremo da Gio Sentieri, trasformando Cozzoli in un apprezzato compositore. Si dice che il primo amore non si scorda mai. E infatti ad Alberto Testa, dopo aver ottenuto un certo numero di successi come autore, torna la voglia di fare il cantante. Ci prova con Vestita di Rosso, un brano scritto proprio da Rinaldo Cozzoli. L'idea è quella di andare a Sanremo, ma è il 1961 e Alberto Testa non ha fatto i conti col destino. Mentre Alberto Testa si dà da fare per intraprendere nuovamente la carriera di cantante, Tony Renis rimette in piedi la sua vita dopo la delusione del Festival del 1961. E le avevo tentate tutte e ho detto, beh, forse non sono predestinato a diventare famoso. Tony è un tipo puntiglioso, preciso, esigente. I suoi amici più cari ricordano che nella sua carriera non ha scritto moltissime canzoni. Il motivo è semplice. Per Tony Renis ogni canzone è come un figlio e gli si dedica per anni facendo correzioni, ricominciando da capo, smontando e rimontando ogni sua parte in un lavoro continuo che dura in alcuni casi anche diversi anni. Tony ha un bellissimo motivetto che gli suona in testa ed è convinto di avere per le mani un vero successo. Ma nonostante svariati tentativi, non riesce a trovare un testo abbastanza bello da appoggiarci. Tony vuole portare il pezzo a Sanremo e si rivolge al suo amico Giulio Rapetti, in arte Mogol, il quale però non può scrivere nessun altro testo in quanto partecipa già a Sanremo con altre due canzoni. Mogol consiglia a Tony di andare a chiedere aiuto ad Alberto Testa, sicuro che lui avrebbe trovato l'ispirazione giusta per il testo. Immaginatevi un ragazzo di soli 22 anni, seduto a bordo di una 500 in una fredda piovosa notte milanese. Immaginatevi adesso un signore di 34 anni, che sono le 11 di sera, in pigiama e pantofole, si prepara per andare a dormire. Poi, dopo un tempo infinito trascorso a ripetersi nella mente la frase «suono o non suono», il giovane 22enne suona il campanello del signore e sfodera con il suo inconfondibile balbettio la frase che da quel momento gli aprirà tutte le porte. «Ciao, sono il Tony. Posso rubarti un secondo?» Alberto ascolta la musica di Tony, gli piace. Iniziano a lavorare al testo. Il tempo passa e alla fine sono le 3 del mattino, ma l'ispirazione giusta ancora non arriva. I due si danno quindi appuntamento per il giorno dopo negli uffici di Mariano Rapetti, padre di Mogol e direttore generale della Ricordi, un ambiente sicuramente più favorevole alla creatività musicale. Così, improvvisamente, suonando e cantando la canzone in finto inglese, per assonanza, salta fuori la frase «Dimmi quando tu verrai». È un'illuminazione. Nell'ufficio sembra di vedere due bambini che giocano felici attorno al loro gioco preferito. Il testo nasce e cresce in pochi minuti e alla fine la canzone è pronta, come uscita dal cilindro di un prestigiatore. Io credo nel destino, il destino, il Sanremo 62, il resto è storia. Proprio così. Siamo nel 1962 ed è appena nato uno dei più grandi successi mondiali della musica italiana. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Vi ricordate quando abbiamo detto che Alberto Testa avrebbe voluto partecipare al festival come cantante? Beh, Alberto deve fare una scelta. La sua canzone Vestita di Rosso, secondo i suoi discografici, può partecipare al festival, ma non interpretata da lui. Se proprio vuole fare il cantante, l'unica canzone che può cantare a Sanremo è Quando, in coppia con Tony Renis. Alberto preferisce andare a Sanremo da spettatore e la sua Vestita di Rosso, poi portata al successo di Marino Marini, non raggiunge la finale. Quando, intanto, è pronta per essere mandata a Sanremo. Ma durante le preselezioni, pur piacendo e convincendo gli addetti ai lavori, risulta essere la prima delle canzoni scartate. Il destino ama divertirsi e per una serie di combinazioni fortunate che portano alla rinuncia da parte di una delle canzoni ammesse, Quando viene ripescata ed accede alla fase finale. I miei sorrisi e i tuoi si sono spenti. A Sanremo vincono Domenico Modugno e Claudio Villa con la canzone Addio Addio. Ma la vera rivelazione è proprio Tony Renis con la sua Quando. In poco tempo la canzone diventa un successo, rimanendo al primo posto per 10 settimane consecutive, per un totale di oltre 20 settimane in top 10. Pat Boone, cantante texano che già da qualche anno frequenta l'Italia musicalmente, rimane folgorato dal ritmo della canzone di Tony Renis e la porta in America, dove in breve tempo ottiene un enorme successo. Un giorno viene da me Rick Eckeberry, il mio manager, e mi dice: «Ehi Pat, questa la devi proprio cantare anche tu, in inglese. Scommetto tutti i miei soldi che diventa un successo mondiale». Io gli rispondo: «Ok, però il titolo suona meglio se lo lasciamo in italiano». Intanto in Italia, Tony Renis si prende la sua rivincita personale nei confronti del Festival di Sanremo e nel 1963 trionfa con la canzone Uno per tutte. Sei quasi fatta per me. Negli uffici della Ricordi, Mogol, appena sentita la melodia, scrive quasi di getto la prima strofa, ma viene bloccato da Tony Renis, che ritiene opportuno, trattandosi della canzone per Sanremo, coinvolgere anche l'amico Alberto Testa, anche per una questione di scaramanzia, visto che l'anno precedente aveva portato fortuna a tutti e due. Mogol telefona a Testa, dicendogli di essere in difficoltà, di non avere più idee e di non riuscire a terminare la canzone. Detto, fatto. Magicamente, la canzone è pronta a fine pomeriggio e Alberto Testa, capito il piccolo raggiro di cui è stato vittima, ringrazia con la calma e il sorriso che lo accompagnano da sempre. Ormai non è più tempo di andare in giro con il campionario di tessuti in macchina e non c'è neanche posto di fare spettacolini di avanspettacolo per tirare a campare. Il successo con la S maiuscola per Tony Renis e Alberto Testa è arrivato per davvero. Ora bisogna solo trovare un modo per gestirlo, per non perderlo, prima che il destino decida di fare qualche scherzo. Vivo e in fondo non so degli anni di un istante che vivranno me. Destini incrociati. Siamo testimoni della nascita di un successo. Un successo cercato e inseguito per anni da un giovanissimo cantante tenace e volenteroso e da un rappresentante di tessuti con l'animo del poeta. Per Tony Renis e Alberto Testa è l'inizio di una nuova vita. Mentre Alberto Testa rimane a Milano e continua la sua brillante carriera di autore, Tony Renis insegue la sua inesauribile voglia di fare, costruire, inventare nuovi progetti musicali per appagare la sua continua ricerca della perfezione. Con i primi guadagni derivanti dalle royalties discografiche, Tony acquista una Fiat 2100, una macchina bella, elegante, dalla linea americana. Sì, perché l'America è il grande sogno di Tony Renis. Hollywood, Beverly Hills, le star della Metro Goldwyn Mayer, è lì che il giovane menestrello di porta ticinese vede il suo futuro. Quindi una mattina Tony lascia la sua Milano, destinazione Los Angeles. Quando è già un grandissimo successo anche in America, ma nessuno conosce Tony Renis perché la canzone è stata cantata da Pat Boone. Bisogna inventarsi qualcosa. E chi meglio di un affascinante italiano può trovare una soluzione? Lavoravo come centralinista al Beverly Hills Hotel, il più famoso ed importante hotel di Los Angeles, frequentato da attori, produttori, registi. Insomma, ci potevi incontrare mezza Hollywood. Mr. Renis aveva prenotato un bungalow e passava le giornate a bordo piscina. Me lo ricordo, poverino. Nessuno se lo filava. Era un perfetto sconosciuto. Poi un giorno viene da me, mi regala il suo disco e mi sorride. E le posso assicurare che aveva un sorriso magnifico. E mi dice, chiamami ogni 10 minuti al telefono. Gliel'ho detto che balbettava? Beh, insomma, cominciai a dire all'altoparlante, Mr. Renis at the telephone. Dopo un po', la gente cominciò a domandarsi chi fosse questo tizio che tutti cercavano al telefono e iniziarono a salutarlo. L'esca è buttata e i pesci abboccano. Un cenno di saluto diventa un invito a presentarsi e a scambiare 4 chiacchiere e in poco tempo Tony Renis diventa amico di tutti. Viene invitato a tutte le feste che contano ed è in quel periodo che nasce il motto No Tony, No Party. In poco tempo Tony Renis conquista Hollywood. Viene conteso da attori e registi ovunque vada, si mette al pianoforte o prende in mano una chitarra e improvvisa concerti e spettacoli. Dai tempi della guerra nulla è cambiato per lui, tranne il pubblico. La forza di Tony è sicuramente la sua incredibile simpatia, il suo carattere solare e altruista. Quando ti dice di essere amico di Charlton Heston, di Kirk Douglas, lo è veramente, nel senso che qualunque cosa faccia e qualunque mano stringa, Tony lo fa per il piacere di farlo, senza aspettarsi nulla in cambio. È un uomo sincero e questo suo carattere rischia in più di una occasione di essere frainteso a causa di alcune amicizie considerate scomode dai media. Ma di questo parleremo più avanti. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. A Milano, intanto, Alberto Testa lavora nel suo ufficio al 7° piano di Galleria del Corso 4. Le cose cambiano e finalmente i guadagni dalla professione di autore cominciano ad arrivare. Dopo la vittoria a Sanremo con Uno per Tutte, cantata da Tony Renis, scrive per altri grandi interpreti, da Mina a Bobby Solo, da Memo Remigi a Ornella Vanoni. Poi, nel 1966, 2 canzoni che rimarranno nella storia della musica italiana. Bandiera Gialla, interpretata da Gianni Pettenati, e A Pizza, che Giorgio Gaber e Aurelio Fierro, la strana coppia, come li chiamano tutti, portano al Festival di Napoli. Ma sul finire degli anni 60, Alberto Testa ascolta ancora una volta una canzone scritta dal suo amico Tony Renis e ne scrive il testo. È nato un altro grande successo. Il titolo è Grande, grande, grande. Ora bisogna solo trovare qualcuno che la canti. Siamo agli inizi degli anni 70 e Tony Renis fa la spola tra l'Italia e gli Stati Uniti. Una sera, in occasione di un galà al teatro alla Scala di Milano, sul palco si esibisce Elettra Morini, prima ballerina ed étoile del teatro milanese. La sera stessa, dopo lo spettacolo, Elettra Morini con Antonio Gades, famoso danzatore spagnolo, viene invitata a una festa a casa di amici. Come avevamo detto? No Tony, no party? Alla festa è presente anche Tony Renis. È un colpo di fulmine, come racconta la stessa Elettra Morini nel suo libro autobiografico Ballerina. Domani sera ballerò, ti lascerò un biglietto all'ingresso, gli dissi, convinta che non sarebbe mai venuto. A quell'epoca era considerato un Don Giovanni. Tornata a casa mi infilai nel letto, ma feci fatica a prendere sonno. Mi risuonava nella mente quel motivo, grande, grande, grande, che mi aveva sussurrato in un orecchio. Non ero del tutto consapevole di quello che stava accadendo, ma lo trovavo piacevole. La sera successiva lo vidi apparire in camerino. Il giovane cantante e la splendida étoile del teatro iniziano a frequentarsi e diventano in breve tempo una coppia solida e inseparabile. È ancora Elettra Morini a raccontarci com'è Tony Renis quando le luci dei riflettori si spengono. Tony è un uccello notturno. Stare sveglio tutta la notte a lavorare per lui è la regola. Abituata com'ero alla rigorosa disciplina del mondo della danza, basata su orari stabiliti, trovai la cosa inconcepibile. Il suo motto è «Posso fare 100 volte meglio». Ed è per questo che perfeziona in continuazione ciò che scrive sul pentagramma. I frutti di questo maniacale perfezionismo si vedono comunque in ogni sua canzone capace di raggiungere sempre il successo. Se Grande Grande Grande è servita a conquistare il cuore della sua amata Elettra, che come un cigno affascinava l'esigente pubblico della Scala, quella stessa canzone deve ora catturare una tigre. Nel 71 facevo il portiere all'Hotel Duomo. Quando si riveste la mia posizione si diventa amici di un sacco di gente famosa. Una sera il mio amico Tony Renis mi dice: Mario, devi assolutamente ascoltare questa canzone, l'ho scritta per Mina. Io l'ascolto e dico: è bellissima, perché non gliela proponi? E lui mi risponde che agli altri cantanti sì, ma a Mina non si può chiedere di cantare una canzone, deve essere lei a cercarti. Siccome io ero all'epoca amico di entrambi, organizzo un appuntamento a Lugano dove Mina abita e convinco Tony a venire con me. Arrivati a casa di Mina, Tony prende l'acetato che aveva preparato del disco con la sola base musicale e inizia a sussurrarle all'orecchio la canzone. Era la sua tecnica. Dopo solo due battute, Mina lo blocca e gli dice: Tronis, così lo chiamava, questa è la canzone che cercavo. In quegli anni la discografia è rappresentata quasi esclusivamente dai singoli. Gli album occupano una piccolissima fetta di mercato. Quando Tony con stupore apprende che Grande Grande Grande, malgrado le promesse di Mina, non sarebbe uscita come singolo per volere della casa discografica, chiede all'editore Alberto Karish di togliere la canzone dall'album. Non riuscendo nell'intento, Tony decide allora di giocare la sua arma segreta, la simpatia. Prende una lacca della canzone e va a Roma, a casa di Tullio Grazzini, Deus Ex Machina di Supersonic, la trasmissione radiofonica più importante del momento. Grazzini ascolta la canzone e viene convinto da Tony Renis a trasmetterla. La reazione del pubblico è strepitosa. La radio viene sommersa da telefonate di persone impazzite per la canzone e per questo motivo, a furor di popolo, la casa discografica è costretta a cambiare le proprie scelte e a pubblicare la canzone come singolo. Il resto è storia. Grande Grande Grande diventa immortale e molti altri cantanti la interpretano in tutte le lingue del mondo, da Julio Iglesias a Shirley Bassey, fino ad arrivare a Celine Dion, che ne canta la versione inglese intitolata I Hate You Then I Love You, in coppia con Luciano Pavarotti. I'd like to run away from you, but if I were to leave you, I would die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try. No matter what you do, drive me crazy. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia di Tony Renis e Alberto Testa, due artisti che dagli anni 60 ad oggi hanno cambiato la storia della musica italiana. All'attività di paroliere, negli anni 70, Alberto Testa affianca anche quella di autore televisivo. Nascono così anche canzoni che fanno da sigla ad alcune fortunate trasmissioni televisive. L'aria del sabato sera, cantata da Loretta Goggi, e Cicale, cantata da Heather Parisi, rimangono dei classici della televisione italiana. Poi la collaborazione con Enzo Trapani, regista della trasmissione Non Stop, che lancia tra gli altri nomi come La Smorfia, I Giancattivi, I Gatti di Vicolo Miracoli, Carlo Verdone. Le trasmissioni televisive curate da Alberto Testa sono tantissime e tutte prestigiose. Il sabato sera diventa la seconda casa di Alberto, passando attraverso due edizioni di Fantastico, per poi approdare negli anni 90 a Scommettiamo che. Malgrado gli impegni di lavoro, l'amicizia con Tony Renis continua e si rinsalda anno dopo anno, come ci racconta Elettra Morini nel suo libro. Vedere insieme Alberto Testa e Tony Renis è un po' come guardare due fratelli. L'uno, Alberto, timido e silenzioso, tranquillo ma con la battuta sempre pronta. L'altro, Tony, un vulcano in eruzione. In più di un'occasione è lo stesso Alberto Testa a suggerire a Tony cosa fare durante le sue esibizioni improvvisate e Tony esegue, dimostrando cieca fiducia nei consigli di quello che considera il suo fratello maggiore. È il 1981 e Alberto Testa è l'autore della trasmissione Te la do io l'America, condotta da Beppe Grillo. Per realizzare alcuni contributi video viene organizzata una trasferta a New York alla quale partecipano Enzo Trapani, Antonio Ricci, Beppe Grillo e ovviamente Alberto Testa. Ad attenderli in aeroporto c'è Tony Renis, che si offre ancora una volta senza pretendere nulla in cambio di aiutare i suoi amici italiani. Al ristorante, così per caso, salta fuori una chitarra e Tony intrattiene tutti cantando le sue canzoni. Grillo è molto divertito, ma è diffidente. Non ama questo atteggiamento da emigrante di successo che traspare dal sorriso di Tony Renis. Tony intuisce questa diffidenza e sfida Beppe Grillo. Affitta due carrozzelle trainate da cavalli e percorre con i suoi ospiti la quinta strada cantando a squarciagola Quando, quando, quando. La gente si avvicina per stringere mani, salutare, chiedere autografi e fare fotografie. Alla fine, anche Grillo deve ricredersi. Tony Renis ha veramente conquistato l'America. Per raccontare gli aneddoti della vita americana di Tony Renis non basterebbe una vita. Gli episodi sono tantissimi e tanto più sembrano inverosimili, tanto più sono incredibilmente veri. Come quando i suoi vicini di casa una sera chiamano la polizia per schiamazzi notturni e i poliziotti si trovano davanti Placido Domingo che canta accompagnato al pianoforte. Oppure quella volta con Gregory Peck. Mio figlio Anthony aveva conosciuto Tony Renis a Los Angeles. Mi disse: papà, devo farti conoscere un uomo eccezionale. Abbiamo organizzato una cena a casa nostra e ricordo che Tony portò un pacco di spaghetti direttamente dall'Italia e li cucinò per noi. Erano gli spaghetti più buoni che avessi mai mangiato e alla fine della cena andai nel mio studio e presi l'Oscar che vinsi per Il buio oltre la siepe e glielo diedi dicendo: meriti questo riconoscimento per aver cucinato i migliori spaghetti del mondo. Credo che Tony conservi ancora quell'Oscar nella sua casa di Los Angeles. Noi ci vediamo spesso, siamo molto amici di famiglia con mia moglie, con Gregory. Sì, e le devo dire che ogni tanto Gregory quando ha voglia di spaghetto chiama, dice: Tony, I wanna eat some spaghetti. And I say, would you please to come over here? No, cook for me some spaghetti. Allora io mi travesto, mi metto il cappello da cuoco, mi metto il grembiulino che mi ha regalato Frank Sinatra e gli cucino uno spaghetto storico. Anche se Tony Renis conserva l'Oscar di Gregory Peck, nel 1998 vuole provare a vincerne uno con una sua canzone. L'occasione gliela dà il produttore americano David Foster, artefice di grandi successi per artisti come Madonna, Celine Dion, Michael Jackson. Stavo lavorando alla colonna sonora del film Quest of Camelot e cercavo una voce importante per cantare il tema principale del film, così da valorizzare la colonna sonora. Il mio amico Tony mi propone Andrea Bocelli, che però non conosco. Quando sento un suo provino, gli do carta bianca e lui in poco tempo scrive il testo italiano con un altro grande autore, Alberto Testa. Il pezzo viene inciso da Bocelli con Celine Dion e vince il Golden Globe. L'emozione è grande perché questa vittoria significa la candidatura all'Oscar. Lead us to a place. pursued your grace to a place where we'll be safe. Good morning, I'm Bob Ramey, president of the Academy. We're here to unveil our nominees for the 71st Annual Academy Awards. But first, I'd like to introduce my co-announcer this morning. He's the very gifted Oscar-winning actor, Mr. Kevin Spacey. Alla 71esima edizione degli Oscar, è il tricolore italiano a sventolare più in alto di tutti. È l'anno della Vita è bella, che vince 3 Oscar, tra cui quello indimenticabile, annunciato da Sofia Loren per Roberto Benigni. And the Oscar goes to... Anche Tony Renis e Alberto Testa sono seduti nelle prime file dell'Academy Hall. Alberto era seduto accanto a me ed io sedevo accanto a Tony. All'apertura della busta contenente il nome della miglior canzone, trattenni il fiato. Quando la presentatrice Jennifer Lopez pronunciò «And the Oscar goes to When You Believe», nella sala calò il silenzio. Tutti si aspettavano la vittoria di The Prayer, anche perché l'esibizione di Andrea Bocelli e Celine Dion era stata la più applaudita. Non posso negare che la delusione fu grande, ma durò solo un momento. Vidi Tony subito riprendersi e caricarsi di nuove e positive energie. In fondo stiamo parlando di Mister Quando, dell'uomo che è amico personale di attori, registi, produttori, e così può capitare alla moglie Elettra di prendere una telefonata e sentire dall'altra parte la Casa Bianca. Un giorno squillò il telefono. Andai a rispondere. This is the White House. Mrs. Reagan wants to speak with Mr. Tony Renis, disse una voce. Rimasi senza parole. Nancy Reagan era una grande ammiratrice di Julio Iglesias e chiese a Tony di organizzare un'esibizione alla Casa Bianca in onore di Ronald Reagan. Quando sei la persona più desiderata dal jet set americano e stringi le mani a centinaia di persone, può capitare qualche volta di sporcarsi senza saperlo. Ecco perché nella sua carriera Tony Renis è stato spesso accusato di avere amicizie scomode, da John Gambino a Joe Adonis, fino a Michele Sindona. Quando il giudice imposimato lo trattiene per interrogarlo sulle sue amicizie con Michele Sindona e in un momento concitato gli urla «Ma allora vi decidete a cantare?», Tony gli risponde con candore «Mi scusi, signor giudice, ma io canto solo per la Warner Bros.». Tanto la figura di Tony Renis è stata in questi anni sotto i riflettori, tanto quella di Alberto Testa ha goduto di una discreta riservatezza. Il carattere semplice dell'autore non lo ha mai portato a vivere come una star, anche se non è affatto difficile paragonarlo ad alcuni grandi autori del panorama mondiale che forse sono più conosciuti di lui, ma non per questo superiori. Alberto Testa, con discrezione, ha vissuto anche la malattia che lentamente ma inesorabilmente se l'è portato via nel 2009. Oggi Tony Renis continua a essere un animale notturno che impiega anche 15 anni per comporre una canzone, che inventa nuovi progetti discografici e li fa apprezzare a tutti i principali produttori americani. L'uomo a cui non si riesce proprio a dire di no. Fedele alla sua musa, Elettra, abbandonato dal suo compagno di avventure Alberto. Per lui ha sempre un pensiero in ogni intervista e con lui condivide il dono che ha conquistato con le sue canzoni, l'immortalità. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.